adulti. Il lavoro fa cultura. Buonasera e bentrovati da Emiliano Sbaraglia per un'altra puntata di L Cult qui ai microfoni di Radio Articolo 1. Una puntata speciale, uno speciale di esse, infatti, come i nostri radioascoltatori sanno, noi ci occupiamo dei libri della casa editrice EDS ogni martedì. Oggi, 24 settembre, invece ci siamo voluti occupare, seppur di giovedì, di un libro in particolare e di un autore in particolare, anzi, più che chiamarlo autore, dovremmo chiamarlo un uomo politico della società e della cultura italiana che ha fatto il Novecento italiano nel vero senso del termine, attraverso una lunga carriera politica e di militanza all'interno del Partito Socialista Italiano. Parliamo di Riccardo Lombardi, ne parleremo diffusamente, ne parleremo con Stefano Iucci che è qui in studio con noi. Ciao Stefano. Ciao a te e tutti i radioascoltatori. Sì, noi con qualche giorno di ritardo in qualche modo celebriamo anche noi il 25esimo anniversario della morte che avvenne il 18 settembre del 1984 di uno straordinario personaggio del dopoguerra e anche della resistenza italiana. Stiamo parlando di Riccardo Lombardi, uomo politico di grandissimo spessore, di cui però in questo paese così un po' poco avvezzo a ricordare le cose importanti, purtroppo si è persa un po' la memoria. Tant'è che, almeno a quello che ho visto io, la ricorrenza è praticamente passata nel silenzio. Allora, perché questa trasmissione? Questo è un programma di libri e quindi parliamo di libri. L'EDS, la casa editrice della CGIL, in occasione di questo anniversario ha pubblicato due volumi che noi riteniamo di sicuro interesse. Uno è un testo di Riccardo Lombardi stesso, o meglio, un'intervista dello storico Carlo Vallauri a Riccardo Lombardi dal titolo assolutamente evocativo di L'alternativa socialista, così nel 77 per l'Erici, e che nell'occasione è stata pubblicata da EDS con un saggio introduttivo inedito, cioè scritto per l'occasione da Fausto Bertinotti, che probabilmente è uno dei pochi uomini politici di questo paese a tenere ancora l'insegnamento di Lombardi come punto di riferimento costante nella sua riflessione teorica. L'altro volume è anch'esso una ripubblicazione, una bella biografia di Miriam Mafai, Lombardi, una biografia politica, una biografia che si legge come un romanzo, ricca appunto di dati, di ricostruzioni, di una cronologia che sa ricostruire con grande perizia l'arco dell'attività politica di Riccardo Lombardi. Ecco, noi ci occuperemo in particolare quest'oggi del primo dei due volumi da te citati, L'alternativa socialista, un'intervista a Riccardo Lombardi da parte di Carlo Vallauri, insegnante di storia contemporanea presso l'Università per Stranieri di Siena, con un saggio introduttivo, come dicevi tu Stefano, di Fausto Bertinotti, molto interessante, scritto nel, appunto, proprio per l'occasione nel luglio, perlomeno consegnato nel luglio del 2009. Noi abbiamo in collegamento diretto il presidente Fausto Bertinotti, che salutiamo. Buonasera. Buonasera a loro e chi ci ascolta. Buonasera. Dunque iniziamo con una prima domanda, diciamo così, di carattere generico, cioè vorremmo spiegare, vorremmo far comprendere meglio ai nostri radioascoltatori dove è nato nella persona, nella figura politica e culturale di Fausto Bertinotti, questo interesse per un uomo come Riccardo Lombardi. Beh, diciamo in qualche modo un tratto di generazione. Io diciamo vengo alla politica militante, prima c'erano state prove generali sul terreno delle culture, ma diciamo l'impegno diretto è col luglio del 60 con il grande moto antifascista di quella che poi verrà chiamata la generazione delle magliette a strisce. In quel periodo c'è un grande fervore che anima la sinistra, perché si sta compiendo un passaggio nel paese da una società agroindustriale al neocapitalismo. C'è un passaggio di fondo, un cambiamento della struttura, della cultura, delle soggettività, una nuova generazione entra sulla scena, e contemporaneamente nel movimento operaio, che bisogna ricordare siamo dopo il 56, cioè dopo dopo si è rifatto d'Ungheria, che la morte di Stalin, che il processo di destalinizzazione, il 20° congresso, si apre una grande stagione che si può chiamare revisionista. In questo revisionismo c'è una corrente, per me molto affascinante ancora adesso, che verrà definita con un ossimoro da Gilles Martinet, diventerà poi anche ambasciatore di Francia in Italia, uno dei, diciamo, leader socialista francese molto autorevole, studioso di cose italiane, che chiamò una tendenza, perché non era una corrente, attraversava anche i partiti, dei riformisti trattino rivoluzionari. Nell'intervista che loro hanno citato di Convallauri, Riccardo Lombardi esplicitamente fa riferimento alla sua accettata collocazione in questa tendenza, di cui è stato uno dei massimi protagonisti. Insomma, per chiudere, risultava affascinante per noi questa tendenza, e in questa tendenza un pensatore straordinario per rigore morale, per immaginazione di futuro, per visione, come Riccardo Lombardi, che pensava possibile e necessaria la trasformazione del socialista della società attraverso il processo che lui stesso, come altri, chiamava delle riforme di struttura. Cioè pensava la politica come trasformazione della società capitalistica, da attuare tuttavia non attraverso il processo, diciamo così, di conquista del potere, ma invece attraverso un processo tanto graduale, tanto radicale. Questa è la ragione principale del suo fascino. Buonasera Presidente. Dunque, a me ha colpito nella sua introduzione, a proposito della gradualità di cui parla lei, il sottolineare come la gradualità non significa rimandare, ma significa rendere già da oggi possibile quello che si pensa possa magari raggiungersi pienamente domani. Cioè, gradualità significa iniziare oggi a fare qualcosa, non spostarlo. A proposito, ecco, oggi qual è l'attualità di un testo di questo tipo? Perché è chiaro che quando noi oggi leggiamo socialista, già questa parola, no? Non c'è più un partito socialista, o meglio, è sbriciolato. Insomma, quindi per lei adesso ci ha detto per lei cosa ha significato. Per un giovane, per uno che fa politica oggi, questo testo cosa offre? Io credo che si possa parlare, come qualche volta si fa, di una inattuale attualità. E qual è l'inattualità? L'inattualità è, diciamo, lo stato soggettivo delle sinistre italiane ed europee, le quali o, diciamo, per scelta o per costrizione, in ogni caso non sono protagoniste, neanche nella crisi che ha prodotto la globalizzazione capitalistica, falsificando interamente le sue promesse, di proporre un'alternativa. Quindi qui c'è l'attualità. In che cosa c'è l'attualità? Io credo che se i giovani leggessero queste pagine, potessero leggere queste pagine di Riccardo Lombardi sull'alternativa socialista, sì, potrebbero essere colpiti dal fatto che l'alternativa socialista, e qui sta l'attualità, viene in campo obiettivamente come necessità quando la crisi, Riccardo Lombardi si riferiva lì alla crisi del 72, cioè alla crisi petrolifera, ma non è diversa da questo punto di vista l'attuale crisi per le sue conseguenze, quando la crisi mette fuori gioco le risposte riformiste, diciamo, tradizionali. Perché? Perché la crisi è andata così profondamente da investire il nucleo centrale del modello di sviluppo. E naturalmente può anche essere che questo nucleo centrale venga riproposto, ma allora, come dice Riccardo Lombardi, si avvicina il tempo della catastrofe. Quindi l'alternativa socialista è, diciamo, una necessità storica, se non si coglie la quale, non cogliendosi la quale, si precipita in una deriva che non è il crollo, ma è appunto il rischio della catastrofe. Oggi basta sentire Obama per rendersi conto che, diciamo, non è così lontana dalla percezione di questo rischio, solo che invece è lontana la capacità di avanzare una proposta di alternativa. Sempre per citare Riccardo Lombardi, colpisce la radicalità del suo pensiero alla lettura oggi, perché la gradualità non fa velo minimamente su questa, appunto, radicalità. Basti pensare, lo dico per i nostri ascoltatori, che a un certo punto Lombardi dice c'è una sola ragione che motiva l'esigenza di una presenza di socialisti, qui usa il termine socialista in termine lato, al di là della vicenda di partito, no? Certo. Socialisti per andare al governo, ed è l'avvio di una politica per la costruzione di un'alternativa socialista. Cioè qui c'è un punto davvero di una radicalità di pensiero che oggi ci sembra, come dire, un sogno, un orizzonte lontanissimo. Molto lontano, in effetti, sì. Mi colpiva molto... Ma non meno necessario storicamente, eh? Certo, certo. Mi colpiva molto a tal proposito proprio questa individuazione di questo riformismo, questo riformista rivoluzionario in tono ossimorico, no? Che mi faceva ricordare, sì, tra l'altro, sì, un altro ossimoro per un altro personaggio nato nello stesso anno, tra l'altro, di Riccardo Lombardi. Mi riferisco a Piero Gobetti, nato nel 1901. Si parlava in quel caso, sì, di un liberale rivoluzionario, anche in questo, sì, esattamente, caso. Esattamente, ha ragione, così. In entrambi c'è questa, appunto, questa radicalità che non è dislocata nella presa del potere, ma invece nel cambiamento profondo della società e persino dei comportamenti dei soggetti che devono essere protagonisti della rivoluzione. C'è, come dire, una moralità e una eticità molto grande in entrambi i protagonisti che lei ha voluto citare. In Riccardo Lombardi lo si vede bene, quando propone questa alternativa, comincia dicendo, primo, una politica di riforme deve individuare i suoi avversari e gli interessi che vuole colpire. Anche questo si pensi al rigore di questa proposizione, no? contro il tentativo delle captatio benevolenze a 360 gradi, al carattere indistinto socialmente della politica. Lui dice, no, un momento, bisogna dire quali sono gli interessi che devono essere colpiti affinché altri possano essere premiati. E poi aggiunge, ma anche quelli che devono essere premiati, siccome il modello di sviluppo è entrato irreparabilmente in crisi e non lo si può riproporre se non appunto correndo verso la catastrofe, la stessa sfera dei consumi va riorientata e riorganizzata in una diversa gerarchia, che quindi comporta anche un mutamento dei soggetti sociali che si propongono alla trasformazione. Ecco, Presidente, noi abbiamo in collegamento telefonico anche il presidente di COP Tarcisio Tarquini, nonché giornalista che per ETS ha scelto, ha voluto, diciamo, fortemente la pubblicazione di questi testi, che noi ringraziamo per essere in collegamento diretto con noi. Tarcisio Tarquini, buonasera. Buonasera e buonasera al Presidente Bertinotti. Nonché, posso dire, lombardiano di ferro e sì, di antica tradizione. Ecco, io volevo coinvolgere Tarcisio Tarquini nella nostra discussione di oggi pomeriggio anche ricordare, si parlava con il Presidente Bertinotti dell'attualità del pensiero lombardiano. Ci sono dei capitoli in questa intervista dedicati al rapporto con il sindacato che viene addirittura per certi aspetti considerato all'avanguardia in quegli anni, e rapporto con il mondo del lavoro. Ecco, qual è stata l'importanza del pensiero di Lombardi in questo senso? Lombardi ha un lungo rapporto con il sindacato e ha coerenza di posizione intorno a questo rapporto. Credo che non vada dimenticato che è tra gli uomini politici della sinistra più pronti a cogliere le novità proposte dal piano del lavoro di Di Vittorio e a sostenerlo nella sua attività politica. Riteneva che il sindacato dovesse essere un passo avanti al partito, svolgendo un ruolo che non fosse di pura e semplice, come pure storicamente si era determinato in molti casi nel dibattito stesso interno della sinistra, di contiguità, di prossimità, ma appunto un ruolo che addirittura poteva portare il sindacato a stare un passo avanti al partito. Io credo che, ho ascoltato con molto interesse le sottolineature del Presidente Bertinotti, e mi pare che il succo di questa, della novità, dell'originalità, dell'attualità inattuale di questa intervista sia stato ben sintetizzato. Aggiungerei che per un giovane di oggi, io credo, perché lei parlando mi dice socialista di tradizione lombardiana, sono termini che probabilmente non solo il socialista ma ancora di più il lombardiano sono sconosciuti a un giovane della nostra generazione che pure vive la volontà di cambiamento, sente questa spinta verso il cambiamento e che si trova a dover ricostruire sostanzialmente anche il suo quadro di riferimento ideale, di valori, di il magistero, ricorrere al magistero di persone, di personalità importanti, come è stato per le generazioni precedenti. Ecco, un giovane probabilmente conosce poco il termine socialista e conosce ancor meno il termine lombardiano, però lo studio che io spero che attraverso questi due libri si possa riprendere del pensiero, dell'attività, del profilo politico, storico di Lombardi, possa portare a un giovane a accogliere il rigore etico, il rigore morale della sua visione della politica, una politica che non fa mai riferimento solo a se stessa, ma che pone sulle sue finalità all'esterno e che trova la necessità di legittimarsi sempre attraverso quello appunto che ricordava il presidente Bertinotti, non esaurirsi in una ricerca del potere, nella conquista del potere, ma risolversi nel processo di trasformazione, nel cooperare a un processo di trasformazione della società. Io vorrei chiedere al presidente Bertinotti, però prima ricordando ai nostri giovani radioascoltatori che il presidente Bertinotti il 29 aprile del 2006, quando fu eletto presidente della Camera dei Deputati, dedicò l'elezione alla presidenza della Camera alle operaie e agli operai. È soltanto 3 anni fa, insomma, invece oggi purtroppo anni luce. Sono, diciamo, sembrano consegnate a un passato che l'attualità non ci ripropone con grande, appunto, disponibilità. Vorrei leggere un passo dell'intervista a Lombardi, che io credo, se ho ben capito, insomma, come dire, anche la traiettoria e gli interessi politici di Fausto Bertinotti, immagino che l'abbia colpito molto e io lo invito a commentare. Una domanda di Vallauri sul ruolo dei partiti politici. Lombardi risponde che in larga misura le scelte delle forze politiche sarebbero completamente puntate nel vuoto se esse non fossero in qualche modo precedute dai movimenti sociali che le propongono e le giustificano. Ecco, io credo che un'affermazione del genere, insomma, in questa epoca sia di una novità e di una modernità straordinaria e credo che in qualche modo faccia anche riferimento a un percorso politico di Fausto Bertinotti, se non sbaglio. Naturalmente sono, diciamo così, fedele sostenitore di questa tesi che non mi ha mai abbandonato per tutta la vita, in questo senso, diciamo, possiamo continuare a dirci lombardiani. Tuttavia vorrei dire 2 cose. Una, non si dimentichi che l'intervista del 76, sì, è vero. Rispetto al nostro, diciamo, cortese interlocutore, che ha detto delle cose anche molto intelligenti su Lombardi, io mi permetterei di fare un'osservazione. Non è vero che Lombardi ha sempre pensato le stesse cose sul sindacato. Del resto io non penso che nessuno pensi le stesse cose nel corso di un'intera vita. Questa intervista del 76 è diversa, per esempio, dal pensiero di Riccardo Lombardi dagli albori del centro-sinistra. È quello che si legge, per esempio, nel bel libro della Maffei. Perché in che cosa è diverso? Che il Lombardi degli anni 60 è, diciamo, essenzialmente per una politica di riforme di struttura dall'alto. Adesso il termine dirigista è diventato squalificato, ma se si intende nella sua forza, diciamo, come dire, illuministica, si può dire che quello fosse il tratto prevalente di Riccardo Lombardi come dei grandi riformatori degli anni 60. Poi interviene una vera e propria rivoluzione culturale che è il 68 e il 69. Sarebbe, diciamo così, persino ingeneroso non attribuire a un uomo della intelligenza, della cultura, della mobilità intellettuale di Riccardo Lombardi la non capacità di essere pervaso da questo grande moto. E se voi andate a leggere le pagine sul sindacato, vedrete che parla, dice a un certo punto, che cosa è questo movimento a cui lei ha fatto riferimento. E perciò, veniva detto giustamente precedentemente, che l'attenzione al sindacato era diventata così rilevante, anzi un'avanguardia, anzi una postazione avanzata. Perché è il sindacato dei consigli. vorrei ricordare tutta l'elaborazione di Riccardo Lombardo sul contropotere, sull'esigenza cioè che quel movimento si radichi nella società attraverso un'organizzazione democratica e partecipata che costituisce la base anche del, diciamo, del controllo sociale sull'economia, sulla politica, sulle istituzioni. Questo è Riccardo Lombardo, così consapevole del carattere eccezionale di quella leva, che dice: temo che il sindacato, ci sono molte componenti che smarrisca questa ispirazione, lo dice esplicitamente, appunto per questo suo grande interesse al movimento. Ecco, nella metà degli anni 70 è evidente che il riposizionamento della cultura riformista trattino rivoluzionaria di Riccardo Lombardi, cioè l'alternativa socialista dei riformi di struttura, prende la prevalenza del rapporto tra la politica e i movimenti. Quindi, questo è veramente un aggiornamento di un grande dirigente politico, che appunto è nato nel 1901, che è capace proprio di rinnovare sulla base delle esperienze delle lotte sociali la propria cultura politica, rimanendo fedele alla sua ispirazione di fondo, cioè all'ispirazione della trasformazione della società capitalista. Ecco, abbiamo ancora un paio di minuti che, se Tarcisio Tarquini è d'accordo, spenderei per una domanda. Non so se hai qualcosa da chiedere tu al presidente Bertinotti, Tarcisio. Solamente, ovviamente, il presidente Bertinotti ha ragione nell'osservazione che faceva, quindi vorrei solamente chiarire che però a me sembra che la contestazione sull'illuminismo, diciamo così, della visione poi programmatoria di Riccardo Lombardi negli anni 60, quella che è stata anche un'accusa politica che gli è stata fatta, era appunto un'accusa politica. Mi pare che anche nelle fasi precedenti, voglio dire, delle riflessioni di Riccardo Lombardi ci sia comunque questa attenzione che porta ad un occhio, diciamo così, particolare di attenzione nei confronti del sindacato. Ma detto questo, io vorrei dire e chiudere con una domanda proprio a Fausto Bertinotti, chiedendogli, lui ha sottolineato un punto importante, l'ha colto come elemento da riproporre alla discussione politica, la formula di Lombardi della occupazione come variabile indipendente. A me sembra importante che venga ripreso questo tema e lo riaffiderei al presidente Bertinotti. In un minuto, grazie presidente. Fausto Bertinotti in linea? Sì, pronto? Sì, sì. Ascoltato la domanda? Ho ascoltato la domanda, che trovo molto interessante e intelligente. Volevo solo dire a Tarquini che quando mi riferivo all'illuminismo, io lo considero una caratteristica positiva del Lombardo degli anni 60, e non lo dico in termini, diciamo, critici, anzi ce ne fosse. Per arrivare alla domanda, tocca un punto fondamentale. Io penso che quando Riccardo Lombardi dice: bisogna fare dell'occupazione la variabile indipendente, anzi, del lavoro la variabile indipendente dell'economia. E dice: guardate che il lavoro adesso viene sempre considerato dopo tanti altri fattori, dopo l'efficienza, dopo la competitività, dopo. E questo che va rovesciato. Bisogna mettere al primo posto il lavoro e fare dipendere le altre variabili, queste sì dipendenti, la competitività, l'impresa, la crescita, il PIL, da questa centralità del lavoro e dell'occupazione. È così vero che Riccardo Lombardi avanzò allora la proposta, che sembrò provocatoria e che invece era carica di futuro, della riduzione strategica dell'orario di lavoro come una delle leve per perseguire la piena e buona occupazione. C'è qui un'intuizione che oggi, in questo tempo di crisi, io credo andrebbe ripensata dall'intero campo delle sinistre europee. Bene, noi ringraziamo molto i nostri due interlocutori. Grazie a Tarcisio Tarquini per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto molto cordiale al presidente Bertinotti. E grazie molte a Fausto. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie. E auguri per la trasmissione. Grazie. Grazie. Bene, abbiamo ascoltato insomma qualcosa di molto interessante che probabilmente andava sviluppato ulteriormente, no Stefano? Sì, io, visto che abbiamo costruito tutta la trasmissione pensando giustamente che Riccardo Lombardi è un personaggio, ahimè, dimenticato, vorrei brevissimamente ricordare che Riccardo Lombardi è stato tra i fondatori del Partito d'Azione, ha aderito al Movimento Giustizia e Libertà nel 42, nel 43 ha militato nella Resistenza quale tenente generale delle Brigate di Giustizia e Libertà, successivamente fu prefetto di Milano per il Comitato di Liberazione Nazionale, sciolto il Partito d'Azione, aderì al Partito Socialista, di cui appunto divenne uno dei massimi esponenti, da una posizione sempre di riformismo radicale e rivoluzionario, come dicevamo un po' tutti oggi. Bene, ricordiamo allora l'Alternativa Socialista, intervista a Riccardo Lombardi a cura di Carlo Vallauri con saggio introduttivo di Fausto Bertinotti, e il libro Biografia di Miriam Mafai Lombardi, una biografia politica su cui torneremo nei prossimi giorni. Io ringrazio Stefano Iucci per essere stato con noi. Ringrazio Mauro De Sanctis dall'altra parte del vetro e naturalmente tutti i nostri radioascoltatori, che lascio al nostro GRL delle ore 18. Un saluto da Emiliano Sbaraglia e da Stefano Iucci, che vi ricorda il nostro sito www.radioarticolo1.it.